Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Nel nostro programma parliamo spesso di donne, donne di tutti i tipi, perché di tutti i tipi è il genere umano. Donne intelligenti, donne terribili, donne sanguinarie, donne innamorate, donne che hanno fatto la storia. Oggi vi parliamo di una donna forte, e in realtà la vicenda che vogliamo raccontarvi ha come protagonista una ragazza giovanissima, poco più di una bambina. Pensate che adesso ha appena 22 anni, ma la sua vita è incredibilmente ricca di avvenimenti. Ci sono dei giovani virgulti della canzone italiana che a 22 anni hanno già scritto la loro biografia e la cosa ci fa ridere. Invece in questo caso la storia della nostra protagonista è veramente da biografia di centinaia di pagine ed è una storia che può essere tranquillamente definita una fiaba moderna. È una ragazza che ha saputo fare della sua sfortuna un vantaggio, ha saputo trasformare una vita di sofferenza e di violenza in una vera e propria fiaba. E tutto questo grazie alla sua tenacia, al suo grandissimo talento. La ragazza di cui vi sto parlando si chiama Micaela De Prins, ma non ha sempre avuto questo nome. Micaela nasce in Africa, nella Sierra Leone, il 6 gennaio 1995. Sono nata in Sierra Leone, in Africa occidentale. Il mio nome era Mabinti Bangura e quando sono stata adottata l'hanno cambiato in Micaela. È un miracolo che io sia qui. Non ci credo ancora di essere qui. Quando ero più piccola pensavo di sognare. Ovunque ti guardassi attorno vedevi qualcuno morire e per nessun motivo reale. La piccola Micaela nasce in una Sierra Leone devastata dalla guerra civile. Una delle cause dello scoppio della guerra nel 91 è la crisi dell'istruzione. I giovani non sono messi in grado di studiare, non trovano lavoro, si ribellano alla povertà, alla fame che li schiaccia. È una guerra feroce, di quelle che succedono nei posti dimenticati da Dio, dagli uomini e dai media. È una guerra fatta da soldati giovanissimi che si scontrano col governo centrale. Si fanno chiamare RUF, Revolutionary United Front, iniziano a combattere per ideologia, poi però magari cadono vittima dell'alcol, della droga, diventano violenti non solo col governo centrale ma anche coi civili, uccidono indiscriminatamente, bruciano i raccolti, le case, lasciano dietro di sé una scia di cadaveri mutilati. Non c'è più niente di ideologico in questo scontro. Quello che vogliono, a cui puntano, sono i diamanti, le miniere che li contengono. Micaela De Prins, o meglio Mabinti Bangura, questo è il nome che le hanno dato i suoi genitori alla nascita, vive questa realtà sconvolgente, terribile, che dovrebbe fare vergognare ogni appartenente al genere umano. E lei lo racconterà anni dopo nella sua autobiografia Ora so volare. Quando ho iniziato a scrivere il mio racconto, ho pensato forse potrei farla sembrare una fiaba, ma solo perché molte persone mi hanno detto che la mia vita è come una fiaba. Devo dire che sono fortemente in disaccordo. Sì, ho avuto quello che sognavo, ma ho dovuto combattere. Questa guerra ha distrutto migliaia di persone. Migliaia di donne sono state stuprate e oltre 50.000 persone sono state uccise. Inoltre, avevo la vitiligine, una malattia della pelle che mi ha lasciato delle macchie bianche su tutto il corpo. Ero diversa. In Sierra Leone non capivano. Solo perché ho delle macchie bianche, perché sono nata così, pensavano che fosse una maledizione. Hanno iniziato a chiamarmi la figlia del diavolo, perché chiunque avesse quell'aspetto poteva essere solo la figlia del diavolo. Mabinti è figlia unica, nasce in una famiglia amorevole, atipica, fuori dagli schemi. I suoi genitori si sono sposati per amore, non con un matrimonio combinato. In Africa nessuna bambina ha diritto di studiare, di imparare a leggere, a scrivere, anzi è considerato disdicevole in molti paesi mandare la propria figlia a scuola, ma il padre di Mabinti non è d'accordo, dice che l'istruzione sarà fondamentale per lei. Alla piccola piace studiare, si porterà sempre dietro la penna e il blocco per fare pratica. È guardata con odio e disprezzo dagli altri bambini, soprattutto dallo zio Abdullah. Segnatevi questo nome che ricorrerà nella nostra storia. È un uomo estremamente tradizionalista. Il padre della bambina si spacca la schiena ogni giorno in miniera per mettere da parte dei soldi per le future rette scolastiche di Mabinti, mentre lo zio Abdullah picchia le figlie, picchia le numerose mogli, sostiene che trattare le proprie donne con così tanta premura sia deleterio, sia un modo per viziarle a scapito dell'intera comunità. Ma la vera tragedia per Mabinti arriva con la morte dell'amato padre. È un colpo dolorosissimo, è l'inizio del suo calvario. Un giorno il padre va a lavorare, come sempre, e non torna più. I ribelli hanno invaso la miniera di diamanti, hanno ucciso tutti gli operai senza pietà e con loro anche il padre di Mabinti. È il primo momento in cui la piccola si trova a affrontare faccia a faccia il dolore della perdita e purtroppo sarà solo l'inizio di una lunga serie di brutte esperienze. Io e la mamma ci avvinghiamo l'una all'altra. Lei mi cullò fra le sue braccia e io piansi tutte le mie lacrime. Ben presto l'intero villaggio risuonò di lamenti perché quasi ogni famiglia aveva perduto un padre, un fratello, un figlio o un nipote. Il giorno in cui morì mio padre, credetti di provare il dolore più grande della mia vita e che non ne avrei mai più sentito uno così grande. Poi mi trasferii a vivere nella casa di mio zio e imparai che il dolore, come il verde delle foglie della giungla, può avere diverse sfumature. Lo zio Abdullah è costretto a occuparsi anche di Mabinti e della madre, ovviamente controvoglia. Quindi sfoga su di loro tutta la sua rabbia, non riesce a trovare alcun modo per trarre profitto dalla loro presenza in casa. La madre di Mabinti protegge la figlia con ogni mezzo che ha a disposizione, ma è un mondo duro, durissimo per una donna sola negli anni 90 in Sierra Leone. Il falco e il gabbiano. Lo zio Abdullah comincia a nutrire l'interesse per la madre perché non gli bastano le sue già numerose mogli. La madre lo rifiuta rendendolo ancora più cattivo. L'uomo punisce le due donne, la madre e Mabinti, dà sempre loro meno cibo perché le considera un dispendio inutile di soldi, dato che a causa delle sue macchie bianche non può neanche vendere Mabinti in sposa e tenersi la dote. Lei è salvata dall'amore della madre, la donna lascia il cibo alla figlia affamando se stessa. Mabinti è intelligente, capisce, non può fare nulla e insomma la madre comincia a star male, nel giro di poco tempo muore di fame. La piccola la trova nel suo letto, chiama lo zio e le sue mogli che si convincono che la donna è morta di febbre, che potrebbe infettare anche loro, la seppelliscono di corsa in giardino. Mabinti sa che la madre non è morta di febbre, morta di fame, grida, strepita e il suo carattere forte si fa sentire, scava nella terra fino a strapparsi le unghie, gridando forte di tirarla fuori, che vuole essere seppellita assieme a lei. Una delle mogli di Abdullah la prende, la trascina via forza e sputa la sua sentenza. È colpa di quella bambina se la madre si è ammalata. È pazza, è una sventura, è una figlia del demonio. Insomma, della madre di Mabinti non rimane più nulla. Lo zio Abdullah a questo punto vuole semplicemente liberarsi di questa bambina inutile e scomoda e addirittura maledetta dal diavolo. E insomma, la porta in un orfanotrofio a Makeni. Lei è costretta a camminare per 147 chilometri, avete capito bene, a camminare nella pioggia e nel fango. E la situazione è disperata, la bambina è sola al mondo e si aggrappa all'unica cosa preziosa che le rimane, il suo blocco di appunti, la penna con cui sta imparando a leggere e scrivere. Lei spera di arrivare in un posto più sicuro, lontana dalla guerra. Quando arriva nell'orfanotrofio, lo zio si rifiuta di lasciarla se non gli danno un compenso in denaro, preferisce che muoia di fame e il direttore si impietosisce e ricompensa quest'uomo veramente spregevole con qualche qualche soldo e lei viene affidata all'orfanotrofio, che si chiama Orfanotrofio Paradiso Sicuro. Dunque, adesso non ero niente più che un'orfana. Non c'era più nessuno che mi volesse bene o mi proteggesse, nessuno per cui fossi una bambina speciale. Questi erano i pensieri che mi frullavano in testa mentre ascoltavo zio Abdullah spiegare: «Mio fratello è stato ucciso, sua moglie è morta da poco. Vi porto la mia nipotina, è figlia loro. Ho già molte mogli e diversi figli miei, non posso farmi carico di un'altra bocca da sfamare. E poi è una bambina orribile, dalla lingua tagliente, con un caratteraccio da diavolo, ed è coperta di macchie». A volte il male proprio in una persona è totale. È il caso dello zio Abdullah. E intanto Mabinti è in orfanotrofio. Lei è la 27esima arrivata, non è più una bambina, è la numero 27. E c'è una sorta di gerarchia nell'orfanotrofio. I bambini più belli, più apprezzati, vengono messi in cima alla lista delle adozioni e quindi ricevono dei trattamenti di favore: più cibo, più vestiti, più curi. Lei è l'ultima, riceve pochissimo cibo, non ha mai vestiti nuovi da poter indossare, e in orfanotrofio le donne che si occupano dei bambini la maltrattano, fanno fare i bisogni dei bambini appena nati in faccia a Mabinti per umiliarla, fanno crudeltà di questo genere. La bambina dimostra una grandissima forza d'animo, si difende sfruttando la superstizione delle zie, che sarebbero le donne che si prendono cura delle bambine. Lei fa credere di essere posseduta dal demonio, così la lasciano in pace. L'unica sua consolazione è la numero 26, una bambina che si chiama Mabinti come lei, che le canta delle canzoni dolci per farla addormentare. Le due diventano molto amiche, ma quello che salva Mabinti è l'istruzione. Quando il direttore dell'orfanotrofio scopre che lei sa leggere e scrivere, la inserisce nelle liste di adozione. E poi un giorno c'è un episodio pazzesco, perché è veramente una svolta. Una volta l'avrei definito il bivio. Il vento secco, l'armatano, il vento secco che sferza le terre africane, porta davanti a Mabinti, davanti al viso di Mabinti, la copertina di una rivista. È portata dal vento, proprio come in una fiaba, anche se nella sua vita per adesso non c'è stato veramente nulla di fiabesco. Lei guarda questa copertina e rimane abbagliata. È la foto di una ragazza bianca, bellissima, vestita in modo strano. Lei non sa neanche chi sia. Ride, non ha mai visto una persona bianca, le sembra vestita in modo stranissimo, con una gonnellina rosa, delle scarpette ancora più strane ai piedi. Va dall'unica persona adulta con cui è riuscita a instaurare un rapporto, è la sua maestra Sara. E la maestra le racconta che quella ragazza è una ballerina di danza classica, è vestita così perché si sta esibendo su un palco nel suo costume di scena. Mabinti saltella per la prima volta sulle punte e sogna di essere una ballerina bella e soprattutto felice, come è felice la ragazza in quella foto. E quel pensiero la manda avanti nei momenti difficili, è il sogno di bambina che la sprona a non smettere di sperare, perché forse, se si impegna davvero, anche lei un giorno potrà essere felice. E intanto i soldati ribelli continuano a uccidere, sono assuefatti alla violenza, sono pieni di droga, di alcol e non si sono mai spinti così vicini all'orfanotrofio. Una sera la maestra Sara sta tornando a casa, un camion di giovani ribelli la nota. Lei è lì vicina alla bambina, vede tutto, Sara è incinta, i soldati ubriachi iniziano a scommettere sul sesso del bambino, sarà maschio o femmina, decidono di scoprirlo. Uno di loro scende dal camion con un macete, squarta la pancia di Sara, la uccide per estrarne il bambino. Mabinti vede tutto, il sangue sprizza da ogni parte ricoprendola, il bambino è femmina, le femmine sono inutili per loro, allora i soldati le tagliano braccia e gambe e la gettano per strada. Mabinti grida, tenta di salvarla, un soldato più grande di lei le si avvicina, la ferisce allo stomaco. Quella sera l'orfanotrofio viene occupato dai ribelli, i bambini vengono fatti fuggire e iniziano un viaggio dolorosissimo fatto di stenti, di malattie, fino in Ghana alla ricerca di una famiglia che possa adottarli. But soon my life would turn around. Soon I would have positivity in my life. Presto la mia vita sarebbe cambiata. Presto avrei avuto positività nella mia vita. Sarei stata adottata da una famiglia americana. Ci ho messo del tempo ad arrivare dalla mia nuova famiglia. Quando sono scesa dall'aereo ero triste e malata. come poteva migliorare la mia vita. Ero una figlia del demonio. Non sarebbe mai potuto accadermi niente di bello. Ma poi l'ho vista. La donna con delle brillanti scarpe rosse, con dei brillantissimi capelli bianchi. Non avevo mai visto niente di simile. Era la mia nuova mamma. She was my new mama. Il falco. E il gabbiano. Stiamo raccontando una storia terribile, per fortuna, almeno per una volta, con un lieto fine. La storia di Michaela De Prince, che però fino adesso noi abbiamo chiamato col suo vero nome, Mabinti Bangura, della Sierra Leone. Siamo durante la guerra civile e c'è questa bambina affetta da una vitiligine che le ricopre il corpo di macchie bianche, che è rimasta orfana prima del padre, poi anche della madre, trattata in maniera bestiale da uno zio perfido, che vive una vita di stenti fino a una svolta, la sua adozione da parte di Eleni, la donna americana che le ha salvato la vita insieme alla sorella adottiva Mia, salvata anche lei dall'orfanotrofio e portata dal Ghana in America, nel New Jersey. Eh sì, Eleni De Prince decide di non dividere le due amiche, le due bambine, ricordate, la numero 26 e la numero 27, e le adotta entrambe. E la felicità arriva per Michaela in America. Lei non sa parlare inglese, Eleni capisce che lei vuole essere una ballerina, le promette delle lezioni una volta che avrà imparato per bene a parlare inglese. Sentiamo le parole della madre, diciamo, della madre adottiva di Eleni, che racconta in un'intervista cosa ha significato scegliere di prendersi cura di una bambina come Michaela. Ho incoraggiato Michaela a inseguire la sua passione, perché quando è arrivata negli Stati Uniti, anzi quando l'ho vista per la prima volta in Africa, aveva una foto che le spuntava dalle mutandine. Se l'era portata dietro per mesi. Era la foto di una ballerina francese e voleva diventare proprio come lei. Piangeva perché voleva essere come lei e parlava solo di questo appena ha iniziato a imparare l'inglese. Ho voluto incoraggiarla a seguire questa passione perché ho sempre pensato che se insegui la tua passione poi sarai felice nella vita. E volevo che lei fosse felice perché non aveva avuto una bella vita fino ad allora. E una volta in America, Michaela e Mia vivono con i fratelli e le sorelle adottivi, anche se non è facile imparare le regole della società americana. Michaela è schiva, però è anche violenta, cioè abituata, ha vissuto in un mondo pieno di violenza. Ci sono voluti dei mesi per insegnarle a comportarsi, a non picchiare, a non usare la violenza, che per lei era il linguaggio che aveva sentito parlare in tutti i primi anni della sua vita. Poi nel 1999 arriva la prima lezione di danza. Lei si innamora subito dello schiaccianoci dopo aver visto un video di quel balletto con la sorella. E durante le sue prime lezioni lei si vergogna degli sguardi degli altri bambini, si fa confezionare dalla madre un tutù a collo alto che le copra le braccia e le spalle per nascondere le sue macchie bianche, però impedita nei movimenti perché la stoffa la fa sudare tantissimo. Allora la madre la convince a non temere la sua immagine riflessa nello specchio della sala da ballo. L'unica cosa importante per Michaela diventa impegnarsi più delle altre. Non ha mai sentito parlare di cose come discriminazione e razzismo. Vissi la mia prima esperienza di discriminazione razziale nel giardino davanti a casa. Io e Mia indossavamo vestiti di seconda mano e avevamo organizzato una merenda sul prato con le nostre bambole quando un vicino si avvicinò e disse: voi due bambine fareste meglio a levarvi di torno e a spostare la vostra bella merenda dove io non vi veda. Sto cercando di vendere la mia casa. Qualcuno sta venendo a visitarla e non voglio che veda voi due. In quel momento non avevo capito che c'erano dei pregiudizi razziali in America, perciò fui confusa rispetto al motivo per cui il vicino non voleva che altri ci vedessero. Siamo brutte? Siamo cattive? Abbiamo i vestiti sporchi di erba? Stiamo facendo troppo rumore? Io e Mia non facevamo che porci queste domande, e non solo in quell'occasione. Poi c'è un altro razzismo più sottile del quale non si parla mai, perché ovviamente il razzismo come dire, più assodato, più pericoloso, quello dei bianchi verso i neri, ma c'è anche l'inverso, il razzismo dei neri verso i bianchi. Lei sente critiche rivolte alla sua madre adottiva che non le sa acconciare i capelli, che non la sa gestire come farebbe una madre dalla pelle scura. Il dispiacere vero arriva però quando sogna di poter essere la protagonista dello schiaccianoce. I pregiudizi razziali nel mondo del balletto sono molto radicati. Micaela deve imparare a farci i conti. Nella danza il colore della pelle è importante, soprattutto per chi, come lei, vuol diventare una ballerina professionista. La madre di Micaela è costretta a dipingere a mano i suoi tutù per adattarli al colore della sua pelle, perché non è facile trovare dei costumi di scena che si intonino a chi ha la pelle scura. E il rosa del tutù su Micaela contribuisce a fare contrasto e la rende più bassa e tozza. Alcuni insegnanti considerano uno spreco di tempo e di denaro investire su ballerine di colore, perché con la crescita generalmente diventano muscolose, sgraziate, con i fianchi larghi, col culone. Micaela però non si accontenta di fare della danza il suo hobby, vuole farne la sua vita, il suo lavoro. La sorella si è appassionata alla musica, al pianoforte. Micaela invece si impegna ogni giorno e si impegna più degli altri, perché deve superare i pregiudizi, rendendo un dono i suoi limiti fisici. È più forte, quindi salta meglio e più in alto delle altre, diventa sempre più brava. Purtroppo ci sono molti pregiudizi. Dicono che se sei una ballerina di colore hai piedi terribili, non hai estensione, sei troppo muscolosa, non abbastanza aggraziata. Io voglio essere conosciuta come una delicata ballerina classica di colore che fa danza classica. E Micaela frequenta diverse scuole molto prestigiose in New Jersey, scuole di ballo, poi va in Pennsylvania, poi va a New York e ricopre diverse parti nel suo spettacolo preferito, che è lo schiaccianoci. Quando però si aspetta la svolta importante, riceve l'ennesima delusione. Nel 2004 lei è sicuramente la più adatta per interpretare il ruolo di Maria, la protagonista del balletto, ma la parte finisce a un'altra ragazza perché le dicono l'America non è ancora pronta per una Maria nera. Poi Micaela si ammala, per alcuni mesi non vede più da un occhio, non riesce a fare le piroette. Scoprono che non è mai guarita del tutto dalla fortissima mononucleosi di cui era affetta 5 anni prima, appena arrivata dal Ghana. Guarisce, però nel frattempo muore il suo amato fratello Teddy, che era un altro bambino adottato, e quindi finisce in un nuovo baratro. Lei si isola da tutti per paura di soffrire ancora. Poi arriva un nuovo grandioso colpo d'ala. Insomma, si riprende, ha sopportato troppo per lasciarsi andare, per rinunciare ai suoi sogni e alla vita. E nel 2010, a 15 anni, Micaela viene scelta per partecipare a una delle competizioni più importanti, lo Youth American Grand Prix. Da questa sua ennesima sfida nasce anche il documentario First Position, nel quale la ragazza appare assieme a altre 5 giovani promesse della danza per raccontare la sua esperienza. Molte volte durante le riprese finii per scoppiare in lacrime e dopo le interviste facevo fatica a dormire per giorni. Durante un'intervista rivelai il mio vero nome e quando realizzai dopo quello che avevo fatto, cominciai ad agitarmi e me ne preoccupai per mesi. Bangura, infatti, è il cognome più diffuso in Sierra Leone e temevo che qualche estraneo reclamasse di essere mio parente e mi portasse via dalla mia famiglia. Perciò, ogni volta che mi sentivo a disagio, pensavo alle parole di mia madre. Ricorda, puoi aprirti alla gente e dimostrare che anche le ragazze di colore possono diventare ballerine. Il 2012 è un anno importante per Micaela. A 18 anni si diploma con fatica, seguendo corsi online. Sostiene il provino per la Dutch National Ballet di Amsterdam, una delle più grandi compagnie del mondo. Non spera di farcela e invece la accettano. È un ultimo miracolo che avviene nella sua vita, perché grazie a dei contatti ritrova la ballerina della rivista, quella che le aveva mostrato per prima, con cosa volesse dire ballare e essere felice. La francese Magali Messac. Tra le due avviene un incontro ovviamente molto commovente. Oggi Michaela De Prince è una star internazionale del Dutch National Ballet. Gira il mondo per mostrare a tutti il risultato della sua passione e della sua dedizione. E noi, per districarci, insomma, in un mondo, quello della danza, che io conosco solo dall'altra parte della barricata, solo perché vedo le persone che danzano, ma tra le tante cose io non sono capace di ballare, abbiamo una grande e bella donna di opinione, ma che nasce come ballerina. Abbiamo Rossella Brescia, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per questa bella presentazione. Era il minimo. E senti, Rossella, dunque, noi abbiamo raccontato questa storia, la storia di Michaela De Prince, che è una storia complicata, dolorosa, però è una storia di riscatto. Ecco, la danza, innanzitutto, per te è stata l'occasione di affermare la tua personalità? È stata una disciplina? Cioè, che approccio hai avuto tu inizialmente con la danza? Ma in realtà la danza è stata un po' tutte queste cose per me. Innanzitutto vivevo in un paese, insomma, piccolino, non in una grande città, e quindi per me quello era il modo per evadere, per poter sognare, non so, di poter calcare grandi palcoscenici. Certo. E quindi quello era già un modo per un sentimento di evasione che mi pervadeva in quegli anni. Ma la danza è anche disciplina, è stata, esatto, disciplina, mi ha insegnato tante cose, ma tante cose anche di vita. Cioè, se non avessi fatto questo mestiere, comunque la danza sarebbe stata fondamentale per il mio approccio alla vita che ho adesso, ma che poi mi ha aiutato anche in adolescenza a superare tanti brutti momenti. Certo. Senti, onestamente, quanto conta essere belle per essere una ballerina di successo? Ma belli nel senso belli fisicamente, da avere un fisico un po' diafano, come dire, allungato, per la danza classica forse lì conta moltissimo. Conta. Belli invece esteticamente anche di viso, ovviamente quello non guasta mai, se c'è meglio. Però poi lì non puoi mentire, perché la danza non fa sconti. Se non sai ballare si vede, si capisce e basta. Cioè, sì. Mentre ci sono tante attrici, no, che poi sono diventate anche famosissime, magari non essendo bravissime, sì, che si avventurano un pochino, sì, hanno avuto un carisma, una personalità particolare, sono diventate importanti. Però se non sei brava, sì, proprio brava, non puoi farcela, no. Senti, Rossella, che requisiti fisici bisogna avere per essere una ballerina? Cioè, c'è una morfologia, come dire, tu se vedi una bambina di 13 anni, di 12 anni, sì, puoi dire questa non può fare la ballerina per dei requisiti fisici non adeguati? Allora, guarda, io questa frase non la dico mai, perché mi dà un fastidio immagino, certo. Però io posso capire anche chi la dice, perché magari sono quelli un po' con i paraocchi, quelli un po' più rigidi. Ovviamente se vedi una bambina magra, con le gambe, con muscoli affusolati, come diciamo noi, andeor, cioè tutta ruotata di gambe, collo del piede, eccetera eccetera, ovviamente dici vabbè, questa c'ha un futuro. Certo. Però non si può mai sapere, perché poi magari quella la danza nasce nella testa, sostanzialmente. Se poi nella testa non ti scatta quella cosa di poter continuare lo studio, il sacrificio, la vocazione, puoi essere dotata quanto vuoi, però certo, non arrivi. No, io ti ho fatto questa domanda anche perché la nostra protagonista di oggi, Michaela, in realtà è stata oggetto di discriminazioni. Quindi, da un lato, forse discriminazioni razziali, perché una nera col tutù bianco poteva sembrare così un pesce fuor d'acqua, e poi perché dicevano di lei: tanto quando cresce diventa grossa, le diventa, sì, no, certo, eccetera eccetera. Quindi in questo senso noi conosciamo quasi solo ballerine bianche. Sì, questo è vero, anche se adesso un po' si è sdoganato con Misty Copeland, sì, anche lei di colore, insomma, è stata nominata prima ballerina, insomma, grazie al cielo tutto questo finalmente è cambiato, e quindi alla fine non è una questione di pelle, è una questione di proprio di doti, di bravura. Per esempio, a me dicevano che non potevo fare la ballerina classica perché avevo troppo seno, per dire. Certo. Invece adesso ce ne sono tantissime, si sono attrezzate con dei appositi schiaccioni che comunque ti fanno sembrare un'altra persona. Il contrario, però, della vita, che le donne evidenziano. Esatto, però questa cosa è stata un grande complesso per me, tant'è vero che per esempio all'esame in accademia, mi ricordo, sono andata dalla mia direttrice e le ho detto: ti prego, fammi diplomare con la maglietta, perché non riuscirei a fare l'esame di diploma soltanto con il body, per certo. dire, cioè ti inculcano tante cavolate. Quindi sono molto felice per questa ballerina, perché ha realizzato il suo sogno al di là del colore della pelle, al di là di tutte queste scemenze che poi vengono dette. Ma poi chi l'ha deciso che la ballerina deve essere bianca o nera? Certo. Rossella, ti ringrazio infinitamente, cioè, sei stata preziosissima, in bocca al lupo. Grazie, crepi, anche vive il lupo, io vi ascolto sempre, complimenti a tutti, siete bravissimi. Grazie Rossella. Ciao. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala nella loro vita, e in questo caso, insomma, il colpo d'ala è stato clamoroso, altisonante e bellissimo. Da questa crisalide sofferente che si chiamava Mabinti Bangura è nata una meravigliosa farfalla nera, Micaela De Prince, e noi siamo contenti di avere assistito a questa trasformazione, che è anche un grande riscatto. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i nostri riflettori, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito e ai miei social, ai social della nostra trasmissione o della radio, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno e Chiara Ferré. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.